Che ti scorre nelle vene, guarda qua, c'ho i brividi. E però dai ragazzi, diamo il giusto prezzo alle cose belle, perché questa è una cosa bella, eh?